sonorità, diciamo, anche elettroniche. Si può andare sul sito della radio www.ondarossa.info, come già detto, e lì si possono studiare le varie modalità, sia il 6180 4001, che il conto corrente postale, e sia attraverso carta di credito, eccetera eccetera. Il palinsesto prevede intorno alle 22:30, 25 o'clock. Saluto Naresh Ran Ruotolo, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Dario Righi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name, Alberto Clipper di MDMA, Giulia e Alessandra qui a Roma, Gianluca Becuzzi. Francesco Cornello in quel di Bergamo. E invece noi iniziamo da Milano attraverso Camera Oscura, progetto di Eugenio Mazza di Pavor Nocturnus insieme a Marco Valenti, già fondatore dell'etichetta Totem Schwan. E nel 2019 hanno collaborato in questo lavoro dal nome Quod Est Inferius, un album molto eclettico, vario, che parte dall'ambient, dal martial, fino a partiture anche più elettroniche. Saluto anche Massimo Oders Mascheroni in piena prova con Sokushibutsu Project, altra realtà gestita insieme a Enrico Ponzoni. Tornando a Camera Oscura, da questo lavoro ci ascoltiamo Vitriol e Solve. Thank you. Nasceva nel 2019 questa collaborazione tra Eugenio Mazza e Marco Valenti, dando alla luce Camera Oscura e questo Quod Est Inferius. La Totenschwan Record, proprio dello stesso Marco Valenti, mette il marchio su tutto questo lavoro molto interessante tra ambient oscura e appunto partiture elettroniche, come ho detto ad inizio trasmissione. Vado a risalutare Alessandra qui a Roma e anche un paio di realtà ambient Like Wake e Phantom Ship con Roberto Faloci. C'è anche Massimo Olla che ci sta ascoltando dalla Sardegna, come Hidden Reverse e Noise Delic, un grosso abbraccio anche a lui. Nicola Locci di Hexagonal e Stigmate. Tra qualche minuto chiameremo proprio in causa Dario Righi, sarà capo a Fontana, Cristiano Bocci e Paolo Acquaviva. A proposito di questa compilation ispirata all'opera di Lucio Fulci, maestro del cinema cosiddetto horror, e il buon Raffaele Pezzella attraverso Lighthouser ha dedicato una ipotetica colonna sonora per tutti, per una serie di opere dello stesso Lucio Fulci, morto ormai parecchi anni fa. Ma prima di Progetto Non M2 Serpe ci ascoltiamo Bad Girl, altro progetto italiano, con The Opened the Gates of Hell. Il tutto è estratto da The Beyond, Music Inspired by the Lucio Fulci Death Trilogy. We'll be right back.

Insomma, il buon Raffaele Pezzella, fondatore della 8 Tower Records, ha chiamato raccolta in questo The Beyond Music Inspired by the Lucio Fulci That Trilogy. Ha chiamato raccolta, dicevo, una serie di notevoli musicisti. Questa sera ci siamo goduti Leonardo Granchi come Bad Girl in He Opened the Gates of Hell, e i talentuosi Progetto No Name con Dario Righi e Sara Capoa Fontana, insieme a Duo Serpe con il buon Cristiano Bocci, che vado a risalutare, e Paolo Acquaviva in questa Late Night Black News. Dunque, tre progetti italiani tra i più interessanti e importanti della scena odierna, che hanno dato lustro a questa compilation, peraltro ben frequentata anche da Naresh Ran, da Mario Lino Stancati, da Club invece, che è un artista spagnolo. E pian pianino ce l'ascolteremo tutta nelle prossime settimane. Ripeto dunque, l'idea di fondo è quella di progettare idealmente delle nuove colonne sonore per i vecchi film del Lucio Fulci, e devo dire che il mood citato proprio da Giulia si sposa benissimo con quell'idea di cinema. Vado a salutare Flavio Derbecante di DB Pit e Noise Cluster, insieme ad Arianna Degni Lombardo. Ancora Italia, ancora importanza musicale con Gianluca Becuzzi, ultimo suo lavoro dal nome Mana, che già abbiamo apprezzato in queste ultime settimane. Mana è un doppio CD che profuma di ritualismo, un album sacrale, un album meditativo, un album che parla di sciamani e di sciamanesimo. Ci ascoltiamo una grossa porzione di Blood of the Mountain, che guarda caso vede anche come collaboratore il già citato e salutato Cristiano Bocci. Ooh. si chiama Mana, questo album che è pervaso di fascino arcano ed esoterico, il ritualismo che esce da ogni traccia, da questo doppio CD di Gianluca Becuzzi. Ed è inutile che io vado a ripetere ancora una volta la gloriosissima storia che ha alle spalle questo musicista toscano in tutte le varie derivazioni e affiliazioni. Non cede di un millimetro e ci regala anche questo doppio album tra i migliori del 2021. Qui c'è anche Cristiano Bocci. E questa è la traccia conclusiva del secondo CD, la lunga Blood of the Mountain. Intanto vado a salutare anche Maria, sempre qui a Roma. Abbiamo iniziato con materiale italiano e quindi facciamo adesso un piccolo viaggio in Scandinavia, approfittando del talento di Deutsch Nepal. Dystopian Party Collection numero 3, la quarta compilation nella carriera di Peter Anderson, Lina Baby Doll, qui in collaborazione con Varun, con Position Baby Doll, Geoffroy Delacroix di Dernière Volonté e con Roger Karmanik. Tre tracce con Varun, How Lao, Amanda Lear con Position Baby Doll e Strange insieme a Deutsch Nepal e Roger Karmanik. tre momenti assai diversi di questa compilation di Deutsche Nepal, di questa Dystopian Party Collection numero 3. Una parte che ha dimostrato il talento e la versatilità di questo artista svedese, iniziando con Varuna in quella ballata neo-folk dal titolo How Low, composta da Alessio Betterelli. La collaborazione con Geoffroy Delacroix con Di Position Parallèle e Dernier Volonté in quella traccia dal nome Amanda Lear, più dai climi synth-pop, stravoltissimo synth-pop. Per terminare, la pulsione industrial di Strange insieme a Roger Karmanick di Brighter Death Now. So tell me. Compilation dunque dall'estremo valore, uscita il 1 agosto di quest'anno. Adesso invece andiamo e di molto anche indietro nel tempo, per andare a ripescare un vecchissimo lavoro di un altro punto di riferimento della scena grey area, gli ASPK. Qui alle prese con From Sins to Ritual, un lontano lavoro del 1983 diviso in tre live, di cui uno a Roma alla Sala Borromini nel 1982. E al quale naturalmente io ero assente. 11 dicembre 82, peraltro stavo facendo il militare fuori Roma, quindi pur volendo sarebbe stato problematico. Allora veniamo a noi, ci ascoltiamo The Last Night of Tibet, Napalm e Funk number 2.